La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui diretta alle 16:31 minuti dagli studi della radio di Milano. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ma in realtà che possiate decidere subito se intervenire all'800 24 0024 e le opinioni al 349 238 6666. Sapete che in questi mesi io non dedico quasi mai oramai trasmissioni alla politica, un po' perché non seguo programmaticamente i litigi dentro i partiti che sono molto forti nel PD, in Forza Italia, nella Lega anche di Salvini, lo sviluppo e la messa fuori la porta di Tosi e così via, e quindi non lo so, preferisco fare altro, soprattutto le trasmissioni sono soprattutto quelle chieste da voi, e quindi vi ricordo ancora una volta l'indirizzo, come ieri avete sentito la storia dell'alluvionato di Genova che è stato onesto e adesso deve lui pagare lo Stato, comunque l'indirizzo è versione di Oscar chiocciola radio24.it. Però ci sono delle questioni in politica di una certa importanza che riguarda tutti, e di sicuro quello che è avvenuto ieri, cioè il voto alla Camera dopo quello che c'era stato al Senato, ma in prima lettura del testo della riforma della Costituzione, secondo me vale la pena di un approfondimento, ma per quello che hanno davvero votato con 357 voti a favore ieri alla Camera, più che come invece i giornali oggi insistono dedicando il più delle pagine, più che per quello che è successo in Forza Italia, nel PD, dove le due ali dissidenti da una parte e dall'altra hanno, per così dire, occupato i giornali per giorni e settimane con interviste, poi alla fine hanno votato ciascuno secondo gli ordini della maggioranza del proprio partito, però continuano a dare interviste dicendo mi sembrano minoranze linguistiche più che minoranze politiche. Ma il merito invece di questa riforma, che a questo punto va verso la doppia lettura, e vi ricordo che nella doppia lettura si può il Senato potrà pronunciarsi solo su quello che è cambiato rispetto al testo che ha già esaminato, quindi si va oramai a una scelta che di fondo resterà quella che c'è nel testo della Camera, tranne che per particolari. Ecco, questo schema, questa architettura della nuova Costituzione modificata in molti articoli di fondo, che cosa comporterà per noi? Vi piace, non vi piace da quello che avete capito? Vi piace il Senato dei 100 a elezione indiretta, cioè 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori a vita, che naturalmente non avrà più il potere di esprimere la fiducia nei confronti del governo, quindi via il bicameralismo perfetto, e che diventerà una Camera in cui si accentra la competenza per le materie che riguardano direttamente le regioni e le autonomie. Vi piace il riaccentramento che dopo questi anni di federalismo zoppicante, che in alcune materie, le opere infrastrutturali, l'energia e così via, ha potenziato semplicemente i ritardi delle opere nel nostro paese, vede lo Stato centrale tornare a riappropriarsi delle competenze, e anche quelle in cui nella Costituzione si affida il potere alle regioni, in realtà c'è una clausola di supremazia, come in altre Costituzioni, come anche nella Costituzione tedesca, nel Grundgesetz, in cui pure i poteri dei Länder, quindi dell'equivalente delle nostre regioni, ma lì sono stati, è molto forte. Vi piace questa cosa qui? Pensate che il rafforzamento del potere del governo centrale sia una cosa positiva oppure no? Ecco, un po' di domande di questo tipo. Io, prima di presentarvi l'ospite, di fargli io a lui, che è più competente, alcune domande a vostro nome, e sperando che però interveniate per dirci come la pensate, mi limito a riferirmi a una cosa che ho letto stamane, ma è già riproposta da chi ha scritto questo articolo sul Corriere della Sera, il professor Michele Ainis, che a me per esempio piace molto. Io sono un sostenitore della necessità di riequilibrare dal basso la democrazia, che si risolve troppo spesso in una delega in bianco quando si va a votare, e poi per il resto tra cambi di casacca politica e totale incoerenza rispetto ai programmi e alle elezioni, la politica fa esattamente quello che vuole. E quindi io sostengo la necessità, modestissimamente, personalmente, di solide iniezioni di democrazia diretta. Cioè io vorrei un referendum molto diverso alla facoltà rinsecchita che esiste nella Costituzione italiana, che fu adottata da padri costituenti che diffidavano dell'elettorato, pensavano benignamente e benevolmente che lo Stato li dovesse educare alla democrazia. Quindi c'è un referendum solo abrogativo, c'è un referendum che esclude delle materie, i trattati internazionali, il fisco. Come si può dire che sul fisco non si può chiedere l'opinione agli italiani? Gli italiani non possono promuovere referendum, visto che è l'ABC del rapporto tra noi tutti e quello che ci chiede lo Stato. E sapete che nella Costituzione è così. Non cambia di molto il referendum, purtroppo, nella revisione costituzionale che è votata, quindi resta questo paternalismo di Stato che non mi piace, perché io vorrei una democrazia diretta alla Svizzera. E devo dirvi la verità, anche altre proposte, come per esempio la possibilità di aprire la facoltà di accesso diretto di ogni cittadino alla Corte Costituzionale per la sindacatura di costituzionalità delle leggi vigenti, come c'è in altri paesi, c'è in Germania, c'è in Spagna e così via, naturalmente anche in questo caso non c'è nella revisione costituzionale. Cioè, mi sembra che queste scelte continuino a essere ispirate a una elevatissima diffidenza verso la possibilità di noi tutti di auto-organizzarci per affermare delle opinioni rispetto alla libertà dei partiti di fare quello che vogliono. E in questa riforma costituzionale, superando il bicameralismo, lo faranno soprattutto in una sola Camera, la Camera dei Deputati, e quindi conseguentemente avremo un esecutivo rafforzato. Resterà una forma di governo parlamentare, ma di sicuro il governo sarà più forte. E questa è la risposta di fondo di questa riforma rispetto a decenni in cui l'ingovernabilità vedeva quasi sempre chi governava, qualunque fosse il suo colore politico, destra o sinistra, dire: ma che volete da me, io purtroppo come governo posso fare ben poco, in nome della supremazia del Parlamento qua possono smontarci tutto, io non sono in grado di approvare il programma di governo. Queste le mie opinioni, ma sentiamo quelle del nostro ospite, che, se ho capito bene da tutto quello che ha scritto in questo periodo e dai suoi interventi sui social, in realtà ha un'opinione probabilmente meno critica della mia. È con noi per rispondere alle nostre domande e alle vostre il professor Carlo Fusaro, che insegna diritto elettorale e parlamentare all'Università di Firenze. Io lo ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio, professor Fusaro. Grazie caro Giannino, e salve agli ascoltatori, buonasera. Allora, lei, come giudizio generale, in realtà, rispetto a questa impostazione, che credo oramai resterà, visto che nella doppia lettura appunto si toccano i particolari solo delle modifiche avvenute rispetto al testo già approvato, che giudizio dà? È comunque positivo? Il giudizio è largamente positivo, ma rispetto alle molte cose che Giannino diceva di anzi, dare un giudizio molto positivo su questo progetto non vuol dire non essere d'accordo con lui su alcune valutazioni, devo dire non tutte, ma su alcune, per esempio sull'opportunità di rafforzare il controllo di costituzionalità per certi aspetti, oppure le garanzie indirette che derivano dal referendum, anche se su questo secondo punto nel progetto di legge qualcosa di positivo a mio avviso c'è. Semplicemente non credo che sia il momento in cui proporre temi integrativi ed ulteriori. Cioè, oramai la scelta è fatta. Io non voglio accusare Giannino, figurarsi, tra l'altro per motivi vari ci lo seguo da tanti anni, però non voglio accusarlo di benaltrismo, però non dobbiamo dire, non dobbiamo fare il benaltrismo. Cioè, questo è un paese che sono 50 anni per certi aspetti e per altri 70 che aspetta delle riforme. C'è dubbio. Io dico 70 perché ho scoperto, ed è un personaggio che è da me lontanissimo per cultura politica e anche istituzionale, mi riferisco a Giuseppe Dossetti, ma ho scoperto degli scritti di Dossetti, un famoso intervento che Dossetti che è evocato sempre da molti degli oppositori delle riforme, che già nel 1951 lamentava la debolezza dell'esecutivo nella Costituzione di 3 anni prima. Allora, noi parliamo di queste cose. L'altra cosa di cui pure Dossetti parlava, ma parlava Mortati, ma parlavano in tanti, praticamente dal momento in cui fu votata, non dico entrò in vigore la Costituzione, è quello del bicameralismo. Allora, il mio ragionamento è questo. Facciamo ciò che è possibile fare in questo momento e faremo il resto in una seconda fase, anche perché quello che si può fare in concreto, ed è appunto quello che Giannino ha detto, cioè questo progetto che ormai nella sua sostanza non cambia più, o fallisce o non cambia più, è moltissimo rispetto alla commissione Bozzi, alla commissione di Mitaiotti, non c'è molto in materia di forma, non c'è quasi niente se non indirettamente in materia di forma di governo, e Dio sa se sarebbe utile. Si affianca però una legge elettorale della quale propongo forse di non parlare nei dettagli, perché sennò apriamo tutta un'altra, però è strettamente collegata evidentemente. La combinazione delle due cose ha una coerenza molto forte e risponde a dei modelli di soluzione del grande problema italiano di dare alla democrazia italiana la capacità di decidere, spingerla a darsi anche nei comportamenti la capacità di decidere, ebbene dà delle risposte. Poi se poi mi si chiede, ma tu Fusaro come studioso che ne pensi, no, questo particolare non sarebbe, oddio, due o tre cose che sono delle orripilezze, per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica, è una follia pretendere che ci voglia come minimo i 3/5. Non esiste un meccanismo di elezione che non preveda che, sia pure incentivando il consenso più ampio, a un certo punto la maggioranza si imponga. C'è nulla da fare, è una questione di funzionalità democratica fondamentale, e invece è toccato pagare il prezzo a quelli che vogliono che debbano essere per forza i 3/5. Però quello per esempio dipende anche dal meccanismo ipotizzato dall'Italicum di certo. Premio elettorale, per evitare che si possa immaginare un'idea di qualcuno che fin dall'inizio se lo legge da solo. Capito, ma è sempre stato così. Certo. No, ma per carità, era solo per spiegare a chi è in ascolto. Ecco, cioè. Comunque, torniamo ai punti che io penso che i ragionamenti che fa Giannino vanno affrontati con serietà. Allora, propongo, intanto vediamo i plus, cioè dov'è che sì. I passi avanti sono grossi. Sì. I passi avanti sono enormi. Primo, nel fatto che comunque costruito nel bicameralismo del futuro, il rapporto fiduciario, cioè la possibilità di cacciare il governo, per intenderci, cioè il fatto che il governo è lì sospeso a raccattare comunque una maggioranza, avviene con una sola Camera. I lettori, ascoltatori meglio, che seguono queste cose sanno, ma comunque glielo ricordiamo, che siamo l'unico paese al mondo che ha questa autentica follia, cioè la pretesa di un rapporto fiduciario con due camere diverse che oltretutto sono elette da persone diverse, perché i cittadini, come sappiamo, sopra i 18 ma sotto i 25 non votano per il Senato. Quindi con tutto quello che è sociologicamente accertato, quando io ero giovane si votava più o meno come il babbo e la mamma. Ma ormai basta vedere il voto 5 Stelle, che è un voto che ha una prevalenza di componente giovanile molto forte. Ebbene, e con questo contesto pretendere la doppia fiducia è una follia, infatti al mondo ci ridono dietro e non ce l'ha nessuno. La seconda cosa è il bicameralismo doppione. I costituenti avevano fatto un mezzo doppione, non un doppione intero, perché i costituenti avevano pensato una durata diversa, una legge elettorale diversa. Che però alla fine non c'è mai stato. No, il momento dopo, già nel febbraio del 48, quando fu approvata la legge elettorale, abolirono l'idea della differenziazione di sistema elettorale e poi fu abolita la diversa durata. Devo dire che in questo i partiti dell'epoca furono saggi, ma va riconosciuto, perché una volta fatta la follia alla costituente, perché anche questa è una cosa che va detta, la nostra è una bella Costituzione. Ma non è quel capolavoro intangibile di cui parlano. Esatto. Mondo, e soprattutto nella parte organizzativa. Nella prima parte io me la tengo volentieri. I principi, sì. Io pure su quella discuto molto, perché sono molto datati. Però detto questo, i principi sono i principi, ma le forme organizzative... Allora, questo bicameralismo, io sto facendo un lavoro in questo periodo proprio su questo, sulle riforme in genere, sul bicameralismo in particolare, è assolutamente impressionante come fu considerato una cosa che non andava bene sin dall'inizio. lo so, però così allora, rimase. Qui, e poi è rimasto, è stato razionalizzato. Anche se sono d'accordo con lei che fu un atto di saggezza evitare di avere un duplice rapporto di fiducia con due camere elette in due con due modi diversi, sarebbe stata una follia totale. Non solo, Giannino, ma con elezioni sfalsate del tempo saremmo stati in campagna elettorale permanente fino più di quanto non siamo stati. Cioè, quindi, governi non nella durata di 9 mesi rotte nella Prima Repubblica, ma di 4 mesi e mezzo. Esatto, quindi abbiamo risolto, abbiamo affrontato. Dice, il Senato come lo facciamo? Beh, ora, anche qui elementi di si sarebbe potuto fare in teoria, ma siccome le cose anche in maniera più soddisfacente, però non è che chiedono a Fusaro e a Giannino nella loro sapienza di, o anche ad altri bravi come loro, anche di più magari, di riunirsi in una stanzetta e dare all'Italia la miglior Costituzione. No, si parte da quello che abbiamo oggi con queste forze politiche, con questa cultura politica, con questa storia, e quindi ci allora, abbiamo una seconda Camera fortemente ridimensionata nei suoi poteri, ma francamente ancora di un certo spessore e soprattutto in teoria, la pratica poi vediamo fra 20 anni, in teoria volta, vocata a rappresentare le realtà territoriali, diciamo così, substatali. E qui viene una mia domanda, perché non mi è proprio chiaro questo fatto, cioè nel senso che noi abbiamo questa seconda Camera che poi avrà poteri molto penetranti sulle materie che attengono appunto a ciò che costituzionalmente attiene agli enti locali e alla spartizione delle nuova e diversa rispetto a quello del vecchio titolo quinto, delle materie di competenza locale, solo locale e concorrente rispetto a quello nazionale. Poi potrà però chiedere, deliberando oltre una certa quota, anche di intervenire su tutto ciò che la Camera delibera. La Camera potrà anche in una certa misura fregarsene, però continuerà ad avere molti poteri. Tutto questo mentre in realtà noi riaccentriamo le competenze del governo nazionale, perché questa è la scelta di fondo, e non cambiamo la forma di Stato, perché noi non è che accettiamo l'idea di essere veramente uno Stato federale come i Länder e così via. Allora, questo a me, dopo tanti anni di esplosione di conflittualità alla Corte Costituzionale con impugnative a raffica, a centinaia, tra leggi del governo contro leggi delle regioni e così via, che questo sia davvero una scelta tanto saggia, io non lo so. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:49 primi, stiamo parlando dell'impianto che oramai è scelto dopo il voto della Camera di ieri, la riforma costituzionale, il Senato si era già espresso, adesso si potrà cambiare in seconda lettura solo particolari, poi ci sarà un referendum con ogni probabilità, quindi vi dovrete pronunciare con ogni probabilità nel 2016, perché non si approverà con la maggioranza minima necessaria per votarlo. Intanto ho posto una domanda prima dell'interruzione e prima di dare la parola al professor Fusaro per la risposta, leggiamo un po' dei vostri messaggi che avete mandando. C'è chi dice seccamente mi piace tanto, c'è chi dice PD partito dittatore, c'è chi dice al Senato andranno sindaci, assessori e consiglieri indagati, condannati e corrotti con l'immunità, cioè chi dice ma questa scelta fatta dai consiglieri regionali, visto le cronache di questi anni, ma insomma sono parecchi quelli messaggi di questo tipo. Per esempio, ne leggo un altro, il Senato dei consiglieri regionali, tra l'altro non fisso, fa anche peggio dell'attuale bicameralismo. Non era meglio abolirlo del tutto? Moltissimi messaggi di questo tipo da parte vostra. Un altro, come se non avessero niente da fare i sindaci e compagnia che dovrebbero andarsene a Roma presuntivamente gratis a bighellonare, voglio vederle che cosa ne verrà fuori. Altri che la mettono sui risparmi, per esempio, per risparmiare si poteva dimezzare i parlamentari come chiesto dai grillini, dando 3.000 euro di mensilità, abolendo vitalizi, privilegi, autoblu, guardie del corpo, eccetera. Niente di tutto questo vedo nel clou degli articoli che riguardano appunto Camera e Senato, e questo è anche un altro aspetto che c'è in molti messaggi. Sentiamo anche rapidamente telefonate e poi rigiriamo tutti gli interrogativi e le osservazioni al professor Fusaro. Cominciamo con Gianluca che ci chiama da Napoli. Prego Gianluca. Buonasera signor Oscar. Buonasera. E complimenti per la trasmissione. Voi di Radio 24 devo dire non fate informazione, ma fate un vero e proprio servizio pubblico. La ringrazio a nome di tutti, non solo mio. No, è vero, perché spiegate l'economia in maniera molto semplice anche chi non è abituato alla materia, e al tempo stesso date delle informazioni in più rispetto ai giornali. Grazie molto, grazie molto. Allora, che allora, pensa? Questo volevo dire. Gianluca, ti abbiamo perso, è andata giù la linea, ma ti richiamiamo al volo mentre andiamo da Andrea da Arezzo. Andrea, prego. No, non c'è nemmeno Andrea, sono andate giù tutte le linee. E quindi nel frattempo sentiamo Carlo Fusaro sulla mia domanda e alcune delle osservazioni che venivano dai nostri ascoltatori. Certo, prego. La prima cosa è quella dei risparmi. I risparmi ci sono, oggettivi, perché si abolisce il CNEL, si rendono non più obbligatorie e quindi, se si vuole, si aboliscono, e del resto sono già state drasticamente ridimensionate le province, e assistiamo in questo periodo al problema del trasferimento del personale, quindi è una cosa reale, non è una cosa finta, e in ogni caso si aboliscono 215 senatori. Infine, i 100 residui non costano, perché sono già pagati come consiglieri e come sindaci. Quanto alla questione, dice, ma sono corrotti eccetera, beh, prima di tutto io rifuggo ovviamente dalle generalizzazioni. In secondo luogo, non è che i consiglieri regionali della Repubblica siano peggio, molto peggio dei parlamentari. Ah sì, su questo ha ragione. Quindi, voglio dire, allora questo ci porta per assurdo ad abolire la democrazia, e non posso essere d'accordo. Un problema serio sollevato è quello della funzionalità, invece, sì. Perché dice, questi già hanno da fare tante cose, sì. o sono inutili o hanno da fare, soprattutto si pensa giustamente ai sindaci e aggiungo ai presidenti di regione, già. Io spero entrino nel Senato. Però. Qui il punto è questo, dobbiamo metterci in testa una cosa, che se questo esperimento non è destinato a è destinato ad avere successo, se non vogliamo che fallisca, è pacifico che si debba organizzare i lavori del nuovo Senato in coordinamento con i consigli regionali, come avviene in altri paesi. Il Senato futuro non può essere quella cosa tipicamente italiana. Può lavorare solo per sessioni concentrate. No, chiarissimo. Ecco, deve essere una cosa che lavora una settimana al mese. E questo deve essere molto chiaro, concentrato, ben preparato e coordinato rispetto appunto ai consigli. La mia domanda è, che senso ha fare questa scelta così netta se poi la forma Stato non cambia e in realtà si riaccentra? Dunque, prima di tutto c'è una certa dose di virgolette riaccentramento, perché l'opinione, e io su questo non sono un esperto e non accampo pretese di, però devo dire, effettivamente si ritiene che la riforma del 2001 non sia stata un grande successo. No, è stato un disastro, questo non c'è dubbio. Io non sono d'accordo, Oscar, neanche. Non lo so, l'esplosione della conflittualità di fronte alla Corte. Si era già rallentata. Sì. Vedrete la conflittualità che ci sarà dopo la riforma. Ah, questo vedete, non c'è dubbio. Quando si fa un cambiamento così grande, prima che le cose si riassestino, è ci naturale tempo, che la Corte tempo. Costituzionale sta lì apposta per questo. Però lei dice si può anche non cambiare la forma Stato e avere un Senato così. Torniamo al punto. Sì. Il punto dice, comunque ci siamo reso conto di avere sbagliato nel 2001, stiamo tornando un po' indietro, però sì. Non stiamo tornando al pre-2001, primo punto. Secondo punto, la cosa è coerentissima, perché se funziona, questo naturalmente io non lo posso garantire. Certo, perché coerentissima? Se funziona, sì. Abbiamo un organo, il nuovo Senato, che in rappresentanza degli interessi territoriali va a discutere, a ragionare in parallelo con la conferenza dei presidenti, governo, regioni, comuni, le leggi che poi dovranno essere applicate dallo Stato e dalle regioni. Vedremo. Però professor Fusaro, siccome il tempo oggi è finito, la parte che invece riguarda, secondo me, la necessità di dare più accesso alle forme di democrazia diretta, questa bisogna che ne riflettiamo un secondo, un giorno, vedremo. Intanto continuate con Radio 24, grazie al professor Fusaro, appuntamento con me domani.